Capitolo 50. Allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre, e i medici imbalsamarono Israele. Ci vollero 40 giorni, perché tanto è il tempo che si impiega a imbalsamare, e gli egiziani lo piansero 70 giorni. Quando i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa del faraone dicendo: «Se ora ho trovato grazia ai vostri occhi, fate giungere agli orecchi del faraone queste parole. Mio padre mi ha fatto giurare e mi ha detto: ecco, io muoio, seppelliscimi nel mio sepolcro che mi sono scavato nel paese di Canaan. Ora dunque, permetti che io salga e seppellisca mio padre, poi tornerò». Il faraone rispose: «Sali e seppellisci tuo padre come ti ha fatto giurare». Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre, e con lui salirono tutti i servitori del faraone, gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese d'Egitto, tutta la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e la casa di suo padre. Non lasciarono nella terra di Goshen che i loro bambini, le loro greggi e i loro armenti. Con lui salirono pure carri e cavalieri, così da formare un corteo numerosissimo. Quando giunsero all'aia di Atad, che è oltre il Giordano, vi furono grandi e profondi lamenti. Giuseppe fece a suo padre un lutto di 7 giorni. Quando gli abitanti del paese, i cananei, videro il lutto dell'aia di Atad, dissero: «Questo è un grave lutto per gli egiziani». Perciò fu messo il nome di Abel Misraim a quell'aia che è oltre il Giordano. I figli di Giacobbe fecero per lui quello che egli aveva ordinato loro. Lo trasportarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella grotta del campo di Macpela che Abramo aveva comprato con il campo da Efron l'Ittita come sepolcro di sua proprietà, di fronte a Mamre. Giuseppe, dopo aver sepolto suo padre, tornò in Egitto con i suoi fratelli e con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: «Chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto». Perciò mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre, prima di morire, diede quest'ordine. Dite così a Giuseppe: perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre». Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. I suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: «Ecco, siamo tuoi servi». Giuseppe disse loro: «Non temete. Sono io forse al posto di Dio? Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete. Io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli». Così li confortò e parlò al loro cuore. Giuseppe abitò in Egitto con la casa di suo padre. Egli visse 110 anni. Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione. Anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle sue ginocchia. Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Io sto per morire, ma Dio per certo vi visiterà e vi farà salire da questo paese nel paese che promise con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe». Giuseppe fece giurare i figli di Israele dicendo: «Dio per certo vi visiterà, allora portate via da qui le mie ossa». Poi Giuseppe morì all'età di 110 anni e fu imbalsamato e deposto in un sarcofago in Egitto.